Capitolo 34. I figli di Echidna. Echidna generò orrendi figli a Tifone, e cioè Cerbero, il cane infernale a tre teste, l'idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva all'ema, la chimera, capra che sputava fiamme con la testa di leone e la coda di serpente, e Orione, il cane a due teste di Gerione, che si giacque con la propria madre e generò in lei la sfinge e il leone Nemeo. Cerbero, associato dai dori con il dio egiziano Anubi, dalla testa di cane, che guidava le anime all'oltretomba, pare fosse in origine la dea della morte Ecate o Ecabe. Essa veniva descritta come una cagna perché i cani divorano la carne dei cadaveri e ululano alla luna. La chimera era evidentemente un simbolo calendariale dell'anno tripartito, gli emblemi delle cui stagioni erano il leone, la capra e il serpente. Ortro, che generò da Echidna la chimera, la sfinge, l'idra e il leone Nemeo, era Sirio, la costellazione del cane che inaugurava l'anno nuovo ateniese. Aveva due teste, come Giano, perché l'anno riformato di Atene aveva due stagioni e non tre. Il figlio di Ortro, il leone, simboleggiava la prima metà di codesto anno e sua figlia, il serpente, simboleggiava la seconda. Quando sparì il segno della capra, la chimera si trasformò nella sfinge col corpo di leone alato e la coda di serpente. Poiché il nuovo anno del calendario riformato iniziava quando il sole era nel segno del leone e i giorni della canicola erano già cominciati, Ortro guardava in due direzioni, in avanti verso l'anno nuovo e all'indietro verso il vecchio, come la dea calendariale Cardea, che i romani chiamarono per la medesima ragione postvorta e antevorta. Ortro fu detto primo, presumibilmente perché segnava l'inizio del nuovo anno.